Buongiorno. Buongiorno. Sappiamo che sei indaffaratissima insieme a tutte le altre compagne e compagni nella preparazione di questi tre giorni nel territorio del Pigneto e di Roma Est, e ti chiediamo di distoglierti un attimo da tutto questo e di raccontarci in breve qualcosa riguardo alla resistenza e alla lotta partigiana proprio in quel territorio, perché stamattina abbiamo aperto parlando della resistenza dei curdi, che è qualcosa di vivo, di attuale, di importantissimo per tutti noi, e ci piace cercare di trovare dei collegamenti anche con la nostra storia. Noi sappiamo che al Pigneto ci sono state vicende importanti che ancora oggi ricordiamo, e che tu magari ci puoi descrivere brevemente, raccontandoci un po' quello che è stato negli ultimi anni del ventennio fascista a Roma. Ok, sì, diciamo che l'attenzione che abbiamo avuto negli anni rispetto a quella che è la storia della resistenza locale è specificatamente sul Pigneto Prenestino, ma inevitabilmente il Pigneto Prenestino è un pezzo di un mosaico molto più grosso che comprende la città di Roma, ma nello specifico tutta la zona, la fetta di Roma sud-est. Perché di Roma sud-est? Perché ovviamente si faceva cenno prima all'8 settembre come inizio della resistenza con i fatti di San Paolo, di Porta San Paolo. In realtà il momento più crudo e più anche forte nella città di Roma sarà dopo lo sbarco di Anzio dal 22 gennaio in poi, quando per fronteggiare l'avanzata degli alleati da Anzio, quindi dalla zona sud-est di Roma, nazisti e fascisti si concentrano prevalentemente in tutta questa corona della città, che è appunto la zona di Roma Est, Roma Sud-Est. E proprio più si intensificano le attività di controllo e di privazione di ogni forma di libertà di movimento, di parola, di azione nella città e nello specifico in questa zona, e più aumentano le reazioni, quindi le azioni di resistenza della cittadinanza locale. Non è un caso che rastrellamenti come quello del Quadraro, come quello del Tiburtino, come quelli del Quarticciolo si concentrino proprio in questa fascia, perché maggiore era l'attrito con i nazisti e con i fascisti. Sì, del Quadraro se ne è parlato proprio domenica scorsa, di quel quartiere considerato il nido di vespe dai generali nazisti. Sì, per quanto riguarda il Pigneto, appunto, si inserisce in questo contesto. Diciamo che noi da anni cerchiamo di ricostruire, grazie anche al centro di documentazione intitolato non a caso ad una partigiana, Maria Baccanti, operaia della Viscosa, cerchiamo di ricostruire le storie che intrecciano non solo la storia della resistenza di allora, si intrecciano con le storie della resistenza di ora, perché questa queste ricerche ci permettono di entrare in contatto con le famiglie che ancora oggi sono attive sul territorio. Al Pigneto tutta questa questa ricerca è partita da quattro epigrafi che furono messe dai compagni subito dopo la fine della guerra, dai compagni di quattro compagni appunto morti, tre a Mauthausen e uno alle fosse ardeatine. Sono per le fosse ardeatine un compagno di bandiera rossa, Angelo Galafati, che abitava appunto a via Fortebraccio e che fu catturato durante un rastrellamento operato nel quartiere alla ricerca in realtà di una donna, Maria Baccante, per cui venne fatto nel quartiere un rastrellamento alla ricerca di tutte le Marie, in realtà non trovando lei, che era della stessa banda di bandiera rossa di Galafati, portato via Galafati e morì subito dopo, ucciso alle forze ardeatine in quello che fu l'eccidio più grosso della città di Roma. reso noto alla città e ai familiari il giorno dopo dell'eccidio stesso, con un articolo, un trafiletto di 3 righe sul Messaggero che diceva: l'ordine è già stato eseguito. Poi vai a capire quali ordini e in rapporto a quale, tant'è vero che le famiglie degli assassinati alle Fosse Ardeatine per mesi hanno cercato i loro cari nelle carceri o sperando il ritorno dopo il 4 giugno, ma solo dopo mesi sono venuti a conoscenza della morte alle Ardeatine, come i Galafati, che lo hanno riconosciuto dai lembi del vestito il proprio in questo caso il padre di questa famiglia numerosa di cui conosciamo ancora i figli. Gli altri 3 partigiani che ci hanno permesso di cominciare questo percorso storico al Pigneto sono, ripeto i nomi perché è importante comunque ricordarli sempre, Astori, Lucitelli e Persiani. E a loro non sono state intitolate solamente le epigrafi subito dopo la guerra, ma siamo riusciti ad intitolare a Lucitelli e Persiani anche la piazza dove ogni anno, oramai da 15 anni, svolgiamo la festa del 25 aprile, la festa della liberazione, e ad Azzori invece abbiamo intitolato una sala della biblioteca del Pigneto, che si trova appunto in via del Pigneto 22, quella che era l'ex Serono. Partendo da questi nomi, entrando in relazioni con le famiglie, abbiamo fatto diciamo uno sguardo su quello che era uno spaccato umano degli anni della guerra e della resistenza. Quindi sono tutte famiglie non romane, sono famiglie che vengono da fuori, sarde, dell'Alto Lazio, abruzzesi o comunque delle regioni più povere d'Italia, ci sono veneti, ci sono pugliesi. Questo che ci ha permesso di approfondire ancora ulteriormente quella che era la storia di questo quartiere, una storia che di immigrati provenienti dall'Italia ne ha visti, cioè che è stato popolato da immigrati provenienti dall'Italia e che tuttora è strapopolato da immigrati provenienti da tutto il mondo. Diciamo, di fatto il stato sociale non è cambiato, le problematiche sono rimaste più o meno sempre le stesse. Sempre grazie alla ricostruzione delle storie, quello che ci è venuto subito alla luce è che da sempre è stato un quartiere estremamente solidale, la possibilità... Ancora oggi è un nido di vespe questa zona, perché è un territorio a Roma Est molto attivo a resistere. Non sono personaggi che hanno delle formazioni speciali per essere partigiani, non è l'eroe che ci immaginiamo, ma è chi faceva il punteruolo, chi montava ponteggi, chi faceva l'imbianchino, chi magari anche scolarizzato pochissimo si ribella ovviamente contro quella che è il diritto fondamentale basilare, che è quello appunto della libertà umana, libertà di parola. Senti. Libertà di azione, libertà di movimento, libertà di scelta delle proprie strade, ed è questa ribellione spontanea che caratterizza tutta Roma Est e Roma Sud-Est, ed è per questo che Bandiera Rossa, più che altre formazioni partigiane, hanno avuto maggior terreno di adesione in questi quartieri. Alessandra, sì. Scusa un attimo, diciamo, tutta questa memoria storica fatta di lotte, in molti casi, come ricordavo, anche di sangue, di sacrifici, secondo te come si è depositata, come si deposita oggi nelle lotte del Pigneto attuali? Cioè, si prende l'abbrivio, diciamo, anche da quelle situazioni, viene ricordato, c'è secondo te un aggancio tra quella che è stata questa memoria storica fortissima, importante nel determinare la sconfitta del nazifascismo anche attraverso la lotta dei quartieri e quello che c'è oggi? Oppure, diciamo, intorno a questa questione, al di là delle lotte attuali, c'è un oblio? L'oblio non c'è, perché è un quartiere molto attento, grazie anche a queste memorie nelle strade. È un quartiere molto attento a quello che è il suo passato. E non è un caso che le scuole spesso ci chiedono percorsi storici all'interno del quartiere stesso. Diciamo, il lavoro sul territorio permette di mantenere vivo il filo rosso che unisce quelle vite alle vite di oggi. L'insofferenza contro la privazione di libertà di allora, la stessa insofferenza che viviamo quotidianamente per le strade di oggi. E nonostante abbiano cercato di distruggere il tessuto sociale di questo quartiere come tanti altri, grazie ad un processo di gentrificazione che ha costretto molte famiglie ad abbandonare il quartiere stesso, di fatto la reazione spontanea a questa situazione continua ad essere viva e presente. C'è da dire che al di là della reazione, reazione in forma di lotta e di resistenza, è importante la comunità solidale che c'è alla base, ed è grazie a un forte tessuto sociale che resiste alla distruzione di ogni relazione, vivendo fuori per le strade, non chiusa dentro casa come ci vogliono costringere, che probabilmente questo filo rosso può continuare ad essere considerato tale nel corso degli anni. Sì, non so se ho risposto. Come no, come no. Cioè, non è un caso che la battaglia contro il Lidl, che è stato, che hanno costruito alla fine, ma che è sotto sequestro al Via dell'Acqua Bollicante, si sia caratterizzata proprio da questo, da una comunità che a un certo punto si incontra tutti i giorni sul marciapiede per bloccare l'ingresso delle bitoniere ai cancelli del cantiere della Lidl. Così come per il lago dell'ex SNIA, che due anni fa, il 25 aprile, ha visto un'invasione di 5.000 persone con il corteo che è partito da Centocelle con gli studenti medi, per non per citare tutte le battaglie che sono state fatte in tutela e in difesa dei fratelli senegalesi di via Fanfulla, così come quelli di via Campobasso. Ogni qualvolta che c'era un attacco, e c'è stato un attacco, è una comunità che è scesa in solidarietà contro le prepotenze istituzionali, sì, e esattamente, che vogliono lucrare esattamente sulle nostre vite. Un po' il tema che cercheremo di trattare proprio domani in quella piazza che tu citavi, che è stata intitolata ai due partigiani Nuccitelli e Persiani, che è questa necessità, a questo punto è proprio astinabile, di dare senso a queste ribellioni spontanee, dicevi tu prima, no? Che però permettono agli individui, alle persone che abitano questi territori, di smarcarsi dalla costrizione all'isolamento a cui come dire, si tende a chiudere a chiudere la gente in questa fase affinché subisca passivamente le decisioni altrui. Proprio questo dovrebbe essere, anzi sarà il tema della discussione che proveremo a fare domani in quella piazza, in piazza, sì, certo. durante la giornata che celebra la liberazione, cercando di trovare anche dei ponti, dei nessi concettuali e non solo, proprio con il movimento di resistenza curdo a cui facevamo cenno all'inizio della trasmissione, per vedere un po' in che maniera e attraverso quali forme, al netto delle enormi differenze chiaramente che ci sono in questo momento, è possibile coniugare le pratiche dell'autonomia democratica, dell'autogoverno, del municipalismo libertario, che in quei territori, che in quelle regioni, nonostante la guerra feroce che si sta combattendo nei confronti dei curdi, comunque sono pratiche in atto, non sono teorie, non sono concetti astratti, ma sono forme di democrazia diretta, sono forme di socialismo in via, come dire, di realizzazione. E questo lo vedremo ad affrontare domani con l'aiuto di tutti i compagni che si stanno spendendo anche in questo momento per la preparazione della giornata. Bene. Adesso guarda, a questo punto lasciamo pure Alessandra, perché sentiamo che ci sono un altro i ragazzini che volevo... la reclamano, ce n'ha due e deve dar retta. Volevo dire solo una cosa, Ettore, che domani nel percorso storico che faremo alle 15, proprio per ricordare la resistenza di allora e il legame con la resistenza di oggi, e inaugureremo un percorso che è dovuto in questa città, ma che purtroppo non sempre è riconosciuto, quello della resistenza femminile, apponendo tre epigrafi a tre partigiane. Le prime tre che abbiamo conosciuto da queste ricerche, ma ne abbiamo molti altri di nomi, tra cui Maria Battanti, appunto, operaia della Viscosa, attiva per i diritti delle donne, volta all'autodeterminazione di se stessa e delle proprie compagne e delle operaie che lavoravano con lei, partigiana di Bandiera Rossa. Giovanna Marturano, che abbiamo conosciuto sulla nostra piazza per lungo tempo, che durante la resistenza fu nascosta nella casa di Alba Serafini, un'altra partigiana GAP, proprio lì davanti a quella che era la scuola del Quascio, che era la Giulio Cesare, e che per molti anni, appunto, oltre ad aver agito la resistenza durante gli anni, appunto, il 43 e il 44 in questo quartiere, ha continuato a trasmettere la memoria alle memorie delle generazioni future, quelle che è, diciamo, la lotta per la libertà di tutti e tutte noi. Quindi domani inauguriamo le prime tre epigrafi delle prime tre partigiane, in prospettiva futura di apporne delle altre. Benissimo, okay. Benissimo. Quindi saluto tutti e tutte, vi ringrazio. Grazie a te. Grazie a te. Grazie.